Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City, benvenuto anche a Federico Pedrocchi che ci accompagna anche oggi e che ci aiuterà a dare, per così dire, una prospettiva storica al tema di cui ci vogliamo occupare stasera. Buonasera da Federico Pedrocchi, ciao Maurizio. Parliamo questa sera di traffico che è un problema che oggi ci affligge moltissimo, ma che a quanto pare, insomma, non è proprio una novità assoluta, vero? È talmente poco una novità che io ti riporto nel 1898, grande convegno mondiale a New York per cercare di risolvere il problema più grosso dell'epoca. Nelle grandi città la presenza dei cavalli. Per esempio, in una città come New York ci sono circa 150.000-200.000 cavalli contemporaneamente presenti. Vedo nei tuoi occhi il problema che ha il conduttore radiofonico quando deve dire qualcosa che sa che non bisognerebbe dire, ma però bisogna pure... come la chiamiamo? Sì, perché anche i cavalli hanno delle emissioni inquinanti, sì, diciamo così. Allora, la popò di cavallo assommava 1.500 tonnellate giornaliere e c'erano 150.000 litri di liquidi. Quanti erano, scusa, gli circa 200.000 a rimuovere questa, questa roba? Il problema era abbastanza secondario perché tendenzialmente stava lì, insomma, capisci? Cioè, veniva ogni tanto rimossa. Ma tu pensa che un problema estremamente singolare è il fatto che su 200.000 cavalli con una mortalità giornaliera dello 0,2 avevamo qualcosa come 700 carcasse di cavalli sparse per la città, sono 7 quintali l'uno, cioè non era banale rimuovere. Un problema ambientale di dimensioni veramente colossali. C'erano più morti per cavalli a New York di quanti ce ne siano oggi gente per automobili. Gente messa sotto. Il congresso infatti di New York si concluse come un fallimento, ma la soluzione fu l'arrivo di che cosa? Delle automobili. Che hanno emissioni che quantomeno diciamo vengono portate via dal vento. Sì, via i cavalli, e però che caratteristiche avevano i cavalli? Che si muovevano piano. Possiamo ritornare ad avere automobili che si muovono piano. Insomma, mettere insieme in qualche modo i vantaggi del cavallo, quelli che erano intrinseci, diciamo, del cavallo, con i vantaggi delle automobili. Mettiamoli in questi termini e andiamo a Saronno, dove si sta facendo un esperimento che è un po' unico in Italia. Ne parliamo con Giuseppe Campilongo, che è architetto ed è anche assessore all'urbanistica della città di Saronno. Buonasera Campilongo! Buonasera. Dunque, siamo arrivati a voi perché lì a Saronno state facendo un esperimento molto interessante, cioè quello di imporre sostanzialmente un limite di 30 km orari in un'area piuttosto vasta, decisamente la più vasta che in questo momento c'è in Italia. Insomma, rispetto all'ampiezza corrisponde al 58% della superficie del comune o, dato che chiarisce un po' meglio, l'80% di quello che è il centro abitato. Quanti degli abitanti di Saronno quindi ricadono all'interno di questa zona? Penso che corrisponda più o meno al numero di prima dell'80% del centro abitato, infatti. Che più o meno corrisponde con l'estensione geografica. So che state prevedendo una seconda fase nella quale ci saranno proprio anche degli interventi strutturali su strade, no, marciapiedi. Diciamo che noi abbiamo lanciato le zone 30 diciamo alla spesa minima indispensabile, che è stata quella della segnaletica stradale verticale e orizzontale. Logicamente però le esperienze di altri paesi ci insegnano che esistono tutta una serie di accorgimenti che aiutano il cittadino ad andare a quella velocità, modifiche dell'infrastruttura stradale tali per cui l'auto, diciamo così, è portata a ridurre la velocità. Un po' come quei segnali luminosi, no? Che danno l'indicazione della velocità pur senza multarti o senza reprimere, esatto, in alcun modo, però ti fanno venire voglia di rallentare. Sì, perché c'è magari un'aiuola che sporge dal marciapiedi, oppure si può fare anche diciamo inserendo le isole spazi traffico in modo tale per cui si ottiene un restringimento della carreggiata. Altri accorgimenti possono essere per esempio l'alternanza dei parcheggi un po' a destra e un po' a sinistra della strada, per cui si crea una chicane che anche questa porta a ridurre la velocità. O altri sistemi possono essere i cuscini berlinesi, che si chiamano così perché sono stati adottati per la prima volta. Ma servono per dormire? No, fino a quel punto no, sono dei dossi di dimensioni limitate rispetto alla carreggiata, quindi un'auto in qualche modo almeno con una ruota ci deve passare sopra. mentre invece i mezzi di soccorso o gli autobus urbani riescono a passarci senza fare il salto. A cavallo, diciamo, dell'ostacolo. Senta, lei prima diceva che esperienze di questo genere ce ne sono anche probabilmente di più ampie. Io so, per esempio, che in Inghilterra ci sono già 5 milioni e più di persone che abitano in centri di, da 200 o 300 mila abitanti, nei quali vige questo limite dei 30 km orari. Quali sono i vantaggi che ci si aspetta da questa riduzione della velocità? Intanto i tempi di percorrenza si allungano molto? Nel nostro caso, pur avendola fatta, diciamo così, molto estesa sul territorio comunale, siccome il nostro comune è piccolo, non comporta assolutamente problemi se non di pochissimi minuti di percorrenza in più. In cambio cosa si ottiene? Si ottiene sicuramente una maggior sicurezza stradale, nel senso che un impatto a 30 km all'ora è sicuramente meno grave di un impatto a 50 all'ora. Non c'è dubbio. Paragonato a una persona che cade dal terzo piano circa 10 metri quando impatta a 50 km all'ora e da un piano o poco più quando impatta a 30 km all'ora. Quindi questo è sicuramente un primo evidente vantaggio. E poi ci sono vantaggi anche di carattere però ambientale, vero? Sì, abbiamo un vantaggio sicuramente sul rumore, cioè come se venisse dimezzato il traffico. Certo. C'è un vantaggio anche a livello di socialità, perché di fatto la città viene vissuta dall'utenza debole, pedoni, persone con problemi di deambulazione. Poi comporta anche un altro vantaggio, la possibilità poi di usare magari anche dove non si riesce a fare le piste ciclabili, la bicicletta, e quindi l'altro vantaggio che è quello anche della riduzione dell'inquinamento, perché alcuni studi hanno dimostrato che di fatto, diminuendo la velocità, almeno alcuni inquinanti come il PM10 diminuiscono. Eh sì, perché bisogna ricordarsi che questo PM10 non solo esce dai tubi di scappamento, ma a un certo punto si deposita per terra, e quindi se le auto ci corrono sopra velocemente lo sollevano nell'aria e fanno aumentare quindi il carico di inquinanti presenti nell'atmosfera. Se poi si cancella un po' di terrore dei ciclisti per quanto riguarda, insomma, la possibilità di aggirarsi per la città in bicicletta senza paura di essere messi sotto, probabilmente la somma di tutte queste cose dà un bel contributo alla qualità dell'aria. Grazie Campilongo. Buonasera. Buon cucino berlinese. Lo metto qui nel corridoio della radio. È tutto, a domani.